prevenzione è la parola d'ordine anche per il melanoma. La visita specialistica è oggi supportata da una serie di dispositivi tecnologici che aiutano il medico a vedere prima e meglio. Ne parliamo col professor Ignazio Stanganelli, responsabile del Centro di Dermatologia Oncologica, Istituto Tumori Romagna e referente all'ospedale Niguarda di Milano. Buongiorno professore, benvenuto. Buongiorno a voi. Professore, ciascuno di noi deve tenere d'occhio queste macchioline che possono modificarsi nel tempo e quindi diventare sospette, ma è al dermatologo che spetta fare diagnosi. Molti chiedono allo specialista la mappatura dei nei. È utile? È consigliata a tutti? Beh, mappato tutta una serie di questioni che partono da un momento fondamentale, cioè identificare uno i pazienti a rischio e due la tipologia delle lesioni. A questo punto, per quanto riguarda la selezione dei pazienti a rischio, indubbiamente quelli che hanno molti nei. E all'interno dei pazienti che hanno molti nei, quali nei sono da sottoporre a visita specialistica? Sicuramente quelli che hanno molti nei devono fare una visita periodica. E quindi applicando quella che è la regola universalmente riconosciuta dell'ABCDE, cioè che una lesione sospetta è sospetta quando è asimmetrica, B con i bordi regolari, C con il colore disomogeneo, D con le dimensioni superiori ai 7 mm e che presenta rapidi cambiamenti, queste sono lesioni che vanno fatte vedere in tempi rapidi allo specialista. A questo punto, all'interno del mondo dermatologico, chiaramente lo specialista ha in sé le capacità tecniche anche per andare al di là della regola dell'ABCDE, ovvero con l'utilizzo delle tecnologie che ci permettono di ingrandire la lesione e di studiare meglio quelli che sono i parametri colore e i parametri strutturali che una lesione potenzialmente sospetta fornisce. E noi tutto questo lo facciamo con una tecnica molto semplice che prende il nome di dermoscopia o anche microscopia in epiluminescenza. Grazie a questa tecnica riusciamo sicuramente a selezionare molto meglio le lesioni sospette e soprattutto a ridurre il numero di scissioni inutili con la semplice osservazione clinica. A questo punto, oltre ad avere un percorso diagnostico diverso rispetto alla semplice osservazione clinica a occhio nudo, abbiamo la possibilità per alcune lesioni di andare oltre sia a livello diagnostico sia a livello di monitoraggio. E a questo punto è la sua seconda domanda, cioè la mappatura computerizzata serve o non serve? Sicuramente quello che genericamente chiamata mappatura computerizzata non è altro che un percorso diagnostico che il dermatologo a scegliere durante la visita in epiluminescenza per praticamente sottoporre il paziente a una successiva visita per capire se quella lesione si muove o non si muove. Per quanto riguarda questo tipo di applicazione, purtroppo risente di tutta una serie di variabili tra cui in pratica la capacità del dermatologo nell'identificare una lesione atipica, perché personalmente quando ne è sospetto preferisco toglierlo e non preferisco mapparlo. Al contrario, se ci sono molti nei con aree di atipia più o meno simili, a questo punto può aver senso fare un controllo per un periodo però da 3 a 6 mesi. Però la visita deve essere gestita e il controllo dal dermatologo, perché uno dei problemi del monitoraggio digitale è che diciamo al paziente ci vediamo fra 3 a 6 mesi, poi il paziente non si ripresenta. Se all'interno di queste lesioni sospette c'è un potenziale melanoma, corre il rischio di portare un melanoma in follow-up. Ed è per questo motivo che la metodica deve essere utilizzata da personale esperto con tecnologia ad alta risoluzione e con un livello di rischio per il paziente estremamente basso. Ripeto, una lesione sospetta va asportata immediatamente in presenza di molti nei sospetti, però con caratteristiche peculiari che il dermatologo conosce, si può fare un controllo a breve termine. Da 3 a 6 mesi, diceva il professor Stanganelli, quindi la mappatura dei nei non mette il paziente in condizione di dire intanto sono sotto controllo, vuol dire che i controlli devono essere anche ravvicinati e i tempi rispettati, ho capito bene? Assolutamente sì, perché di fatto il paziente con la mappatura si sente tra virgolette psicologicamente controllato, però la mappatura non esprime che l'insicurezza da parte del clinico nel riuscire a discriminare se la lesione è buona o cattiva, cioè da togliere, quindi ha bisogno di un successivo controllo. Non è tant'è vero che pazienti che hanno migliaia di nei, che spesso si presenta nella nostra osservazione, pensano che noi andiamo a fotografare i migliaia di nei che ce li hanno e li riguardiamo dopo un anno. Questo è praticamente impossibile, scientificamente poco corretto e non ha gran vantaggio in termini di diagnosi precoce. Quindi questa è la cosa più importante, perché la diagnosi precoce la facciamo se riusciamo a togliere un neo sospetto che poi non è poi un neo sospetto ma un franco melanoma, e quindi bisogna asportarlo immediatamente. Professore, dermatoscopio, stereomicroscopio, videomicroscopio sono da tempo entrati nello studio del dermatologo, ma ci aiuta a capire le differenze di questi dispositivi diagnostici e che livello di affidabilità hanno? Sicuramente queste tecnologie sono metodologie differenti che si possono integrare. Essenzialmente tutte e tre le tecniche possono fare l'esame tradizionale di microscopia in ipiluminescenza. Diciamo che il dermatoscopio manuale è uno strumento fisso, portatile, che ci consente uno screening rapido. Il videodermatoscopio invece è una sorta di computer con una sonda ottica che viene applicata direttamente sulla cute del paziente e quindi sulle lesioni da analizzare, e ci permette di valutare a monitor le caratteristiche delle lesioni. Questo è fondamentale nel dire che gli strumenti digitali a disposizione devono avere una capacità risolutiva simile a quella dell'occhio umano. Non è che possiamo avere dei computer o dei sistemi di acquisizione che hanno delle immagini che si vedono molto nero, molto chiaro, molto scure, perché la percezione diagnostica è collegata a quello che si va a vedere in vivo sulla cute del paziente. Quindi è molto importante avere all'interno degli studi medici, dermatologici, degli strumenti ad alta definizione. Per quanto riguarda invece lo stereomicroscopio, è una sorta di microscopio operatorio che è costituito una lente binoculare con degli ingrandimenti fissi che vanno da 6 a 40x e consente di vedere a distanza la lesione, e quindi abbiamo la possibilità di capire l'applicatura, le linee praticamente della lesione analizzata rispetto alla cute circostante, e poi possiamo fare successivamente sia le luminescenza, così come per gli stereomicroscopi digitali abbiamo la possibilità anche di archiviare la stessa immagine. Quindi diciamo sono strumenti al servizio del dermatologo, ognuno con limiti e vantaggi per il tipo di metodica che hanno, ma indubbiamente aiutano il clinico nel percorso diagnostico integrato. Professor Sanganelli, volevo chiederle un'indicazione per le persone che si sottopongono anche con regolarità al controllo dei nei. Rimane sempre un po' il dubbio, ma li avrà visti tutti bene? Li avrà controllati adeguatamente? Non gliene sarà sfuggito qualcuno? Quali sono i criteri che possono rassicurare il paziente di aver ricevuto una visita approfondita, adeguata, minuziosa? Ecco, sicuramente questo è un punto critico, un interrogativo del paziente, soprattutto quando il paziente non viene spogliato completamente e quindi non viene visitato completamente. Per definizione la visita di dermatologia oncologica per la prevenzione del melanoma e per il controllo delle macchie deve essere fatto assolutamente al paziente completamente spogliato, soltanto con la biancheria intima. Il paziente viene visto innanzitutto con una lente di ingrandimento, poi si fanno una sorta di scansione così in vivo, guardando dalla pianta dei piedi sino al viso, le porzioni anteriori del corpo, la porzione posteriore, le due aree laterali. Eventualmente bisogna sempre chiedere al paziente se ha dei nei nascosti da qualche parte, non so, per esempio soprattutto sulla zona genitale, è un po' imbarazzante fare una visita al paziente spogliato completamente, e poi indagare anche il cuoio capelluto e anche la mucosa orale. A questo punto penso che un paziente appena esce dall'ambulatorio dice: sono stato sicuramente visitato bene. C'è uno strumento delle dimensioni di un ecografo che grazie all'utilizzo di un laser permette di analizzare in profondità le caratteristiche che di un neo e quindi vedere le cellule della lesione in vivo. È uno strumento che è presente in alcune strutture italiane e rappresenta sicuramente un grande passo avanti nella diagnosi. Sostituirà o ridurrà sensibilmente il ricorso alla chirurgia? Allora, lo strumento di cui mi sto parlando è il microscopio laser confocale. Il microscopio laser confocale è una tecnologia estremamente innovativa, di recente utilizzo in dermatologia oncologica, che sfrutta in pratica una luce laser a bassa potenza non terapeutica, che consente di identificare componenti cellulari, quindi le singole cellule presenti a livello dell'epidermide, sia i cheratinociti sia i melanociti, la distribuzione che possono avere queste cellule a livello della giunzione dermoepidermica e la componente delle cellule del derma superficiale. Quindi in pratica è considerata una valutazione quasi istologica, anche se ovviamente non sostituisce l'istologia. Sicuramente rappresenta una tappa importante per le lesioni che vengono selezionate dal dermatologo, perché è una metodica che si inserisce nel percorso diagnostico di cui abbiamo parlato poco fa: osservazione clinica a occhio nudo, valutazione in epluminescenza associata a forti ingrandimenti con la tecnica delle epluminescenze digitali con strumenti ad alta risoluzione. A questo punto il dermatologo che ha la possibilità di utilizzare questa tecnica vuole fare un approfondimento per lesioni particolari come quelle del viso, nei bambini, per le lesioni in diagnosi differenziale prima di fare dei trattamenti estetici, e quindi si fa una microscopia laser confocale che ci permette quindi di avere un percorso diagnostico globale, cioè di migliorare la confidenza diagnostica nelle interpretazioni sia dei nei ma anche del melanoma, soprattutto di melanomi molto piccoli e dei cosiddetti melanomi acromici. È una tecnica però che è presente in pochi centri italiani, diciamo che in Italia c'è presso le strutture sanitarie e ospedaliere alla Niguarda, presso la clinica dermatologica di Modena, a Reggio Emilia, all'Istituto Tumori della Romagna di Forlì, all'Istituto Fisioterapico Ospedaliero di Roma, la clinica dermatologica di Brescia, d'Ancona. Ecco, purtroppo sono ancora pochi i centri che hanno questa tecnologia, ma indubbiamente la mettono a disposizione non tanto dei pazienti, ma degli specialisti dermatologi, proprio per migliorare la confidenza diagnostica. Professore, chiudo con una domanda che sono certa si sarà sentito fare più volte dai suoi pazienti. Si possono asportare nei anche solo per ragioni estetiche? Insomma, un neo che non ci piace, possiamo togliercelo, farcelo togliere a cuor leggero? Sì, l'asportazione di un neo non è assolutamente un problema. Non è che asportando il neo diventi un melanoma. In presenza di una lesione sospetta è indispensabile una corretta asportazione chirurgica. In presenza di una lesione che il paziente vuole togliere o rimuovere per problemi estetici funzionali, l'asportazione si può fare normalmente. Ovviamente sarà cura dello specialista dermatologo di identificare le modalità di asportazione più corrette in base all'istopatologia, cioè alla natura, alla localizzazione dell'epidermica o dermica o di entrambe della lesione. Questo è molto importante, una valutazione preoperatoria preliminare, e poi utilizzare delle strategie, le strategie più corrette per rimuovere la stessa. Grazie professor Stanganelli, la ringrazio e le auguro una buona giornata. Grazie, molto gentile.